Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, un caro saluto a tutti voi. Eccoci nuovamente nel nostro percorso di lettura continua del Vangelo di Marco. Chiediamo all'inizio di questa nostra trasmissione, di questa ora e mezzo che condivideremo insieme, il sostegno dello Spirito Santo, invochiamolo reciprocamente perché la parola di Dio che insieme condivideremo non possa essere valorizzata e non sia sciupata in questo nostro condividere la parola. Teniamo presenti gli obiettivi che caratterizzano questi nostri appuntamenti mensili. Il primo è quello di scavare dietro le ricchezze della parola di Dio, cogliendo a volte anche nel dettaglio di una piccola parola la varietà del linguaggio di Dio, la ricchezza che viene da Dio. Il secondo è di cogliere la strategia narrativa dell'Evangelista Marco. Siamo arrivati al capitolo 12 di questo Vangelo, che è così carico di provocazioni per la nostra fede. E infine, proprio come dice il titolo della nostra trasmissione, La tua parola mi fa vivere, l'obiettivo è quello di mettere in dialogo questa parola con la nostra vita, cercando insieme, attraverso il contributo anche delle vostre domande, cercando insieme di capire come la parola di Dio può incarnarsi nel nostro oggi. Prima di riprendere il percorso sul capitolo 12 del Vangelo di Marco, volevo riprendere una delle domande che avevamo lasciato in sospeso la volta scorsa. La volta scorsa una delle telefonate che avevano arricchito la nostra trasmissione concerneva il tema del male. Si trattava di una domanda che aveva fatto Pierangela di Monte Brianza, in cui mi chiedeva come mai, da dove veniva il male nella scrittura, visto che fin dalla prima pagina della creazione Dio, che ogni volta che creava un elemento in una delle sette giornate, dei sette giorni della creazione, concludeva sempre dicendo e vide che era cosa buona. Quindi la domanda che la signora Pierangela faceva era: bene, a questo punto da dove viene il male? E avevo posticipato la risposta alla trasmissione di oggi in modo da potermi anche confrontare con altre persone impegnate nell'insegnamento e nella teologia. E la risposta che possiamo dare a questa domanda è che la creazione è accompagnata e segnata ovviamente solo dalla creazione del bene. Non a caso, al termine di ogni giornata, Dio dice e vide che era cosa buona, e vide che era cosa buona. Questo è il ritornello che accompagna i singoli giorni. Tuttavia è insito nella struttura del bene, è insito nella struttura dell'amore, lasciare la libertà alla persona che sta di fronte. Cioè l'amore è autentico nel momento in cui permette all'altra persona a cui viene donato la possibilità di dire di no. Ora, di fronte all'atto benefico di Dio, al fatto che Dio crea il bene, ecco, il male quando si origina? Nel momento in cui qualcuno dice no. Ecco, all'inizio della creazione noi sappiamo che il primo atto negativo, prima ancora dell'atto del peccato delle origini, che è quello dell'uomo, è stato quello degli angeli. Alcuni angeli, tra cui il Satan, l'oppositore per eccellenza, si sono ribellati al disegno amorevole di Dio, hanno detto in altre parole no all'amore di Dio. Da quel no si è inserito nel mondo il mistero del male. Non è quindi che Dio ha creato il male, ma nel momento in cui Dio si rivela con il volto dell'amore, lascia alle persone che gli stanno di fronte la capacità di opporsi a questo. Proviamo a tradurre in un linguaggio molto più semplice questo concetto. Pensiamo al rapporto che può esserci tra i genitori e i figli. Un papà, una mamma, in genere, amano visceralmente i loro figli. però quando è che quell'amore si esprime nella maniera più alta, nella maniera più assoluta? Quando, nonostante il no, il rifiuto per diversi motivi dei figli, i genitori continuano ad amare. Allora, in quel momento, da un lato, si viene a inserire nel rapporto tra genitori e figli un'incrinatura, un'ombra, però dall'altro l'amore giunge alla sua massima pienezza. Questo lo vediamo del resto anche nella vicenda di Gesù. In quale momento l'amore di Gesù si rivela al suo massimo grado? Quando questo amore, nel mistero spoglio della croce, viene rifiutato dagli uomini, che lo umiliano fino alla morte e alla morte di croce. Ecco, lì noi abbiamo il massimo dell'oscurità dell'uomo, il massimo del male che agisce, di fronte al massimo di bene che vuole così bene all'uomo al punto da permettergli di rifiutare l'amore che gli viene dato. Ecco, ero un pochino in debito verso quindi questa nostra ascoltatrice, è per questo che ho voluto iniziare la nostra trasmissione proprio rispondendo a questa domanda che volutamente avevamo lasciato in sospeso. Ora riprendiamo la nostra lettura del Vangelo di Marco. Invito quanti sono nella possibilità di farlo di prendere in mano un'edizione della Bibbia e di percorrere, di aprirla insieme a me al capitolo 12 del Vangelo di Marco. Come sapete stiamo confrontandoci con le cosiddette controversie. Gesù si trova nel Tempio di Gerusalemme, è la terza volta che visita l'area sacra del Tempio e lì viene avvicinato da diversi gruppi, soprattutto sono i gruppi delle autorità, i gruppi religiosi del tempo. È stato avvicinato da tutti i gruppi insieme, poi si sono avvicinati a lui i farisei e gli erodiani ponendogli la famosa domanda sul tributo, sulla liceità o meno del pagamento del tributo a Cesare. Oggi vedremo altri due momenti di queste controversie rivolte a Gesù. Dopo che i farisei e gli erodiani sono stati allontanati con una risposta che li ha lasciati senza parole, ecco che si avvicinano a lui prima i sadducei e poi uno scriba. È a queste due controversie che ci dedicheremo nella trasmissione di questa sera. Cominciamo dalla prima, vale a dire il momento in cui Gesù si trova a confrontarsi con i sadducei. Siamo al capitolo 12, leggiamo ora i versetti che vanno dal 18 al 27. Vennero di lui alcuni sadducei, i quali affermano che non c'è risurrezione, e lo interrogavano. Maestro, Mosè ha scritto per noi che se il fratello di qualcuno muore lasciando vedova la moglie e non lasciando un figlio, il fratello prenda con sé la donna e dia una discendenza a suo fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese una donna in moglie e morì senza lasciare discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, ugualmente il terzo, e i sette non lasciarono discendenza. Alla fine morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, a chi di loro apparterrà la donna? Infatti in sette l'hanno avuta come moglie. Rispose loro Gesù: non siete voi forse in errore su questo, non conoscendo le scritture né la potenza di Dio? Quando infatti risorgono dei morti, gli uomini non sposano, né le donne sono sposate, ma sono come angeli in cielo. Riguardo poi ai morti che risorgono, non avete letto nel libro di Mosè a proposito del roveto cosa Dio gli ha detto? Io sono il Dio di Abram, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grande errore. Ecco, questa controversia vede protagonisti i sadducei. L'Evangelista ci dice subito che i sadducei si presentano con un obiettivo ben preciso, quello di mettere Gesù con le spalle al muro. I Sadducei, tra l'altro, erano un gruppo religioso che non solo non credeva nella risurrezione, e proprio su questo aprono la controversia nei confronti di Gesù, ma non credono nemmeno nella presenza degli angeli. E noteremo come la risposta di Gesù sia molto accurata, cioè tiene molto presente l'uditorio che ha di fronte. Cerchiamo di capire il tipo di quesito che i Sadducei pongono a Gesù. Cominciano dicendo: Maestro, Mosè ha scritto per noi che se il fratello di qualcuno muore, e così via. Allora, come mai i Sadducei si riferiscono a Mosè? C'è un passo della Bibbia dove possiamo dire, dove possiamo ritrovare questa pagina, questa convinzione, secondo la quale Mosè avrebbe scritto questa norma? Lo troviamo effettivamente al capitolo 25. Se voi aprite la Bibbia al capitolo 25 del libro del Deuteronomio, quindi l'ultimo libro della Torah, dei primi cinque libri della Bibbia, notate che dai versetti 5 e 10 di questo capitolo, 25 del Deuteronomio, viene illustrato un caso di questo tipo. Vi leggo questi versetti. Quando i fratelli abiteranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà con uno di fuori, con un estraneo, ma suo cognato si unirà a lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere di cognato. Il primogenito che ella metterà al mondo andrà sotto il nome del fratello morto, perché il nome di questi non si estingua in Israele. Ma se quell'uomo non ha piacere di prendere la cognata, ella salirà alla porta degli anziani e dirà: «Mio cognato rifiuta di assicurare in Israele il nome del fratello, non acconsente a compiere verso di me il dovere di cognato». Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Se egli persiste e dice: «Non ho piacere di prenderla», allora sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli toglierà il sandalo dal piede, gli sputerà in faccia e proclamerà: «Così si fa l'uomo che non vuole ricostruire la famiglia del fratello». La sua sarà chiamata in Israele la famiglia dello scalzato. Allora, qua noi dobbiamo metterci un attimo nel contesto del periodo in cui questi testi sono stati scritti. Ovviamente questi testi sono scritti in un periodo in cui non si credeva nella risurrezione. Si riteneva che l'uomo, al termine della propria esistenza, finiva nel regno delle ombre. L'unico modo in cui l'esistenza di una persona poteva continuare a percorrere la storia era quella della discendenza. Ecco perché era importante che una persona non morisse senza lasciare discendenza. Il fatto di avere dei figli era una cosa sacrosanta, tanto vero che nel periodo in cui è stato scritto il Deuteronomio non esisteva una prescrizione, se non in casi molto molto rari, come quella del celibato, una scelta di vita come quella celibataria, perché sarebbe stata considerata un'onta, una vergogna, un opporsi al disegno di Dio che chiede all'uomo di far continuare la vita attraverso la discendenza. In questo orizzonte culturale noi capiamo un'usanza di questo tipo che a noi oggi non è per nulla consona, a noi oggi fa decisamente sorridere, se non addirittura ribrezzo, il fatto che una donna rimasta vedova si debba unire con il fratello del marito, con il cognato. Per noi oggi è assurdo, ma allora non lo era, perché era molto importante che la persona morta, quindi il marito morto, potesse continuare a vivere attraverso una discendenza. Ecco allora che il cognato doveva assolvere il dovere, cioè unirsi alla cognata per concepire un figlio. Dopodiché il cognato tornava ad essere libero, non era marito della cognata, no, doveva solo assicurare un figlio a quella donna. E in quel figlio il marito defunto poteva continuare a vivere. E questa prescrizione era così importante che se il cognato non assolveva tale dovere, era un'onta pubblica. Gli anziani della città dovevano prima cercare di convincerlo, e se non riuscivano a convincerlo ad unirsi alla cognata rimasta in vita, si compiva questo rito dove c'erano dei gesti molto gravi, lo sfilare il calzare, lo sputare in faccia e l'etichetta applicata sul cognato, per cui la famiglia a cui apparteneva il cognato sarebbe sempre diventata la famiglia, sarebbe poi stata la famiglia dello scalzato. Un'onta, perché? Perché non era stata rispettata la persona defunta, e quindi non gli si era data una discendenza. Quindi capite bene che i sadducei partono da una situazione estrema per porre il quesito a Gesù. Si basano su Mosè dicendo: c'è una situazione in cui Mosè ha dato una prescrizione molto chiara in merito, ora di fronte alla risurrezione come la mettiamo? Qua c'è una donna che si è unita per 7 volte con i fratelli di suo marito, il marito era uno, poi aveva 6 fratelli, alla fine è morta lei, non c'è stata discendenza. Bene, se ci fosse la risurrezione, c'è da dire, questa donna di chi sarà moglie nella risurrezione? In questo modo cercano di deridere Gesù. Gesù invece interviene in un modo molto netto. Prima di tutto sposta le questioni in gioco. Ecco, il modo di rispondere di Gesù può essere a noi molto utile, perché ci aiuta a far discernimento su come a volte noi valutiamo le cose. Proviamo a vedere come Gesù risponde ai sadducei. Notate che a chi si appella al Deuteronomio, i sadducei si rifanno a Mosè, alla legge quindi che Mosè avrebbe prescritto, Gesù non si appella a Mosè, Gesù rimanda all'episodio del roveto. All'episodio del roveto che vede coinvolto Mosè come primo testimone, anzi che costituisce la vocazione originaria di Mosè, ma che vede Dio parlare, dove Dio si presenta a Mosè dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E quindi voi capite che rifarsi a questo passaggio, che non appartiene al Deuteronomio ma all'Esodo e che risale molto prima rispetto al passaggio citato dai Sadducei, significa già mettere una pietra fissa. Dio, il Dio in cui crede Israele, è un Dio che attraversa le generazioni, è un Dio che non permette alle singole persone di finire la loro esistenza così, in un batter d'occhio, senza che questa abbia più senso. Se Dio si presenta dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, vuol dire che Dio associa a sé queste persone al punto tale che queste persone continuano ad essere vive e a rivivere nel popolo di Israele e a permettere al popolo di Israele di compiere il disegno salvifico, il disegno della storia della salvezza. Quindi è guardando in faccia il volto di Dio che capiamo come l'uomo, che ne è immagine e somiglianza, non può finire la sua esistenza su questa terra, ma deve continuare a vivere. Anzi, il Dio non sarà più solo il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, ma sarà anche il Dio dei nostri nomi, del nome mio, del nome vostro, di voi ascoltatori, è il nome di ogni uomo. Nel momento in cui noi crediamo, Dio si incarna nella nostra storia, trasformando la nostra vita in luogo della sua manifestazione. Quindi vedete, è lo spostamento di accenti che Gesù compie per dare una corretta risposta. Secondo, a chi si vanta di conoscere la legge, perché i sadducei si presentano con un atteggiamento di essere conoscitori della legge, di una delle prescrizioni, Gesù non ha paura di dire loro che sono dei perfetti ignoranti. Non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Perché Gesù può dire a questi sadducei che sono ignoranti? Ma la risposta più comune è semplice ed è questa, cioè anche nel caso in cui quella donna si è unita con i sei fratelli di suo marito, era ovvio che comunque nel momento della risurrezione il marito sarebbe stato il primo, perché i fratelli successivi dovevano solo garantire la discendenza al loro fratello morto, non diventare mariti della cognata. Il marito rimaneva uno, rimaneva quello che era stato sposato e che era deceduto senza lasciare discendenza. Quindi su questo aspetto Gesù, senza mezzi termini, dichiara i sadducei ignoranti, cioè interpreti in modo sbagliato dell'episodio che viene riportato. C'è ancora di più. Nel momento in cui i sadducei pongono il caso, notate come Gesù risponde dicendo che non si possono giudicare le cose con i criteri del presente, con i criteri di questa terra, perché domani, dopo la morte, dice Gesù, gli uomini non sposeranno né le donne sono sposate, ma saremo come angeli nel cielo. Ecco, questa espressione dell'essere come angeli nel cielo è molto preziosa in questo contesto, perché ci fa capire che i criteri con cui noi dobbiamo valutare la vita futura non sono i criteri della vita presente. Quando Gesù dice che noi saremo come angeli nel cielo, non sta dicendo che di là marito e moglie non si riconosceranno più assolutamente. Quando due si sposano diventano una carne sola, e cioè talmente costitutivo della loro identità che anche nell'esperienza della vita risorta è questa relazione che ha costruito un'intera vita, che ha inciso sulla personalità, risorgerà. È una relazione che risorge. Ciò che invece caratterizza questa terra è il bisogno di generare. Nella vita futura saremo come angeli nel cielo, nel senso che non ci sarà bisogno di generare vita, perché tutti noi possiederemo la vita in pienezza. Non ci sarà bisogno di possedere l'altro. I termini che vengono utilizzati in questo brano per indicare l'uomo che prende la donna o la donna che viene sposata concepiscono la donna come puro bene, come puro possesso, cioè come un bene che viene ceduto dal padre al marito. Gesù, quando dice che saremo come angeli nel cielo, sposta i suoi interlocutori a un altro livello, dove la persona non può essere considerata come una proprietà o un oggetto, ma una sua dignità libera, che è simile a quella degli angeli. Ecco, in passato di questo brano sono state date anche altre interpretazioni che sono sicuramente riduttive. Si diceva che si partiva da questo dato per dire, per sottolineare che la scelta di consacrazione celibataria è la scelta degli angeli in cielo, ma il brano non dice niente di questo, cioè il riferimento agli angeli in cielo non è il riferimento alla scelta celibataria, come se la scelta matrimoniale fosse una scelta di serie B, assolutamente no, ma sottolinea piuttosto la dignità, la libertà della persona e una situazione di vita in cui il generare, il concepire ulteriori figli non ha più senso, perché le categorie di vita sono diverse da quelle di questa terra. Allora, capiamo da come Gesù risponde ai sadducei la logica nuova che deve abitare i credenti. I credenti leggono le cose che succedono nella vita secondo i criteri di Dio, non secondo i criteri di una norma, di una legge, anche se appunto questa legge può essere, era, ecco, in questo caso, la legge di Mosè. Lasciamo ora un breve stacco musicale, in modo che ciascuno di noi ha possibilità, modo di ripercorrere questi versetti e di soffermare un attimo sulla risposta che Gesù ha dato ai Sadducei. Magari ecco, in occasione di questa breve sosta, di questa breve rilettura, possono maturare alcuni interrogativi, alcune domande che potremo riprendere poi nella fase del dialogo, prima di passare quindi alla prossima controversia che vedrà come protagonista uno scriba. Quindi lasciamo un breve stacco musicale e poi ci ritroviamo per continuare la lettura del Vangelo di Marco. La prossima controversia, vi dicevo, vede entrare in scena uno scriba. Ora, nel Vangelo di Marco, la classe degli scribi rappresenta uno dei gruppi più ostili a Gesù. Teniamo presente che sono gli scribi primi a essere screditati nel Vangelo, in 1:22, al primo capitolo, dove si dice appunto che Gesù parla con autorità non come gli scribi, che invece non parlano con la stessa autorità. Sono i primi a polemizzare con lui al capitolo 2, nel contesto appunto della cacciata dell'indemoniato. Sono i primi a mettere in difficoltà i discepoli, sempre al capitolo 2, e sono gli stessi che saranno presi di mira dal Maestro di Galilea più volte. Soprattutto lo vedremo in questi capitoli, nei capitoli che avvicinano alla Pasqua. Nelle controversie che vedono protagonista Gesù e vedono Gesù al centro dell'attenzione nel capitolo 12, noi assistiamo lentamente a una sorta di decrescendo, come se un colpo dopo l'altro i nemici perdano potere. Se all'inizio abbiamo visto i tre gruppi iniziali entrare in scena, cioè i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani che erano interpellati dalla famosa pagina dei vignaioli omicidi, poi abbiamo assistito due gruppi entrare in scena, i farisei e gli erodiani sulla questione del tributo, poco fa abbiamo commentato i sadducei, quindi un gruppo solo, ora ci confrontiamo con l'ultima di questa controversia, che vede entrare in scena non più un gruppo, ma una sola persona, quindi c'è proprio un decrescendo, tre gruppi, due gruppi, un gruppo solo, quello dei sadducei, una sola persona. Ecco, mentre decresce in questo modo la potenza dei nemici di Gesù, cresce invece l'autorevolezza di Gesù, che con le sue risposte non solo manda a casa le persone con le pive nel sacco, ma riesce addirittura a convincere le persone. Ed è quello che constatiamo nell'episodio dello scriba. Allora riprendiamo il capitolo 12 e leggiamo i versetti che vanno dal 28 al 34. Uno scriba, che li aveva uditi discutere, vedendo come aveva loro ben risposto, avvicinandosi lo interrogò. Qual è il primo comandamento in assoluto? Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse, bene maestro, hai detto secondo verità che egli è unico e non c'è altro all'infuori di lui. Chiamarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che lui aveva risposto saggiamente, gli disse, non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno osava più interrogarlo. Ecco, con questo episodio si chiudono le controversie, cioè l'ultima risposta che Gesù dà mette in silenzio, fa tacere tutti e conferma nuovamente la sua autorità. Cerchiamo anche qua di entrare all'interno del testo. Prima di tutto lo scriba pone una domanda. Gli domanda qual è il primo comandamento in assoluto. Ecco, qui ci sono diverse traduzioni di questa espressione. Qual è il primo comandamento di tutti? Qual è il primo comandamento tra gli altri? Noi abbiamo tradotto con un avverbio. Qual è il primo comandamento in assoluto? In altre parole, il senso del testo è quello di evidenziare non l'ordine dei comandamenti, cioè lo scrivano sta chiedendo: bene, dammi una sequenza, qual è il primo, qual è il secondo, qual è il terzo, in modo che mi regoli, cioè cerco di osservare bene il primo, poi il secondo ha meno importanza, il terzo ancora meno, no, ma vuole chiedere a Gesù qual è l'essenza di tutti i comandamenti, cioè quali sono quegli atteggiamenti di fondo che devono stare alla base dell'osservanza del Pio ebreo. Questa era una questione molto dibattuta nel primo secolo. Noi abbiamo anche altri testi, alcuni testi della tradizione rabbinica, sia dei testi di Filone, sia dei testi del Targum, alcuni commenti ad alcuni libri biblici come il Cantico dei Cantici, il commento rabbinico al Cantico dei Cantici, dove viene affrontata questa questione, cioè è una questione molto dibattuta nella tradizione ebraica, al punto tale che in genere viene citato il famoso episodio dell'uomo pagano che, accostandosi a uno dei rabbi del primo secolo, a Rabbi Hillel, gli chiese che gli fosse insegnata l'intera Torah stando su un piede solo. E Hillel rispose a questa persona dicendo: quello che odi per te stesso non farlo al tuo prossimo, questa è l'intera legge, il resto è puro commento. E così diede la risposta al pagano stando su un piede solo. In altre parole, il pagano lo aveva sfidato dicendo: ma siccome la vostra legge è così piena di prescrizioni per cui è impossibile convertirsi, ecco, se è possibile convertire un pagano, osservare tutte quelle prescrizioni, dimostralo dicendomi l'intera legge stando su un piede solo. E praticamente il Leli, in modo molto furbo, alzò, si mise su un piede solo e disse: quello che odi per te stesso non farlo al tuo prossimo, questa è l'intera legge, il resto è puro commento. Cioè per Hillel l'intera legge si riassumeva nell'amore al prossimo, il secondo dei comandamenti che qui viene menzionato da Gesù. Ora è interessante notare invece il tipo di risposta che Gesù dà. Gesù risponde non indicando un comandamento, ma invitando a un atteggiamento. Questo è tipico dell'Antico Testamento anche, se voi andate a rileggere Deuteronomio 5, cioè la grande pagina del Decalogo, noterete che il Decalogo, i 10 comandamenti, non iniziano con delle prescrizioni, ma iniziano con un'affermazione: io sono il Signore che vi ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto. Non avrai altro Dio fuori di me. Poi inizia l'elenco dei comandamenti, ma prima c'è un'affermazione, una considerazione, cioè c'è la considerazione dell'azione salvifica di Dio. Prima di tutto si deve riconoscere un Dio che è presente nella storia, poi il comandamento è una risposta grata all'azione di Dio che ci ha preceduto. Allora ha senso far spazio nella propria vita il comandamento, se prima si riconosce l'azione di Dio nella nostra vita. E lo stesso fa Gesù allo scriba che gli chiede qual è l'essenza dei comandamenti, qual è il primo comandamento in assoluto. Gesù risponde dicendo: ascolta Israele, cioè l'invito allo Shema Israele è un invito a ricordare le opere che Dio ha compiuto nell'esperienza dell'Esodo e soprattutto a disporre il cuore a quell'ascolto di fronte a un Dio che parla, a un Dio che precede. Allora, dopo, solo dopo, può aver senso l'invito che viene fatto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la mente, con tutta la tua forza, cioè con tutte le dimensioni della persona umana. E subito aggiunge: amerai il prossimo tuo come te stesso. La relazione con Dio e la relazione con il prossimo sono due elementi che non possono essere scissi l'uno dall'altro. Questo amore vissuto in pienezza dà compimento a tutta la legge. Non c'è bisogno di tante prescrizioni. Le prescrizioni servono per risolvere casi concreti, casi nel dettaglio, ma per Gesù, ecco, l'elemento essenziale è la vita nell'amore. Una piccola sottolineatura per quanto riguarda gli organi coinvolti, no, nella risposta che Gesù dà. Gesù invita ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Ecco, quando noi leggiamo amare Dio con tutta l'anima, dobbiamo tenere presente che sullo sfondo il termine utilizzato nella traduzione greca è il termine psyche, che di per sé non corrisponde all'accezione che noi diamo all'anima. Per noi l'anima è qualcosa di un pochino astratto, qualcosa che sopravvive dopo la nostra morte, che raccoglie la nostra identità. Ecco, il termine greco psyche rende questo in modo più esplicito, perché la psyche è il principio che conferisce vitalità a tutto l'essere umano. Quindi amare Dio con tutta l'anima indica con tutte quelle sorgenti di vita che caratterizzano la nostra esistenza, vale a dire il coinvolgimento in pieno, totale in Dio. Ecco, di fronte a questo lo scriba reagisce ripetendo le parole di Gesù, e nel momento in cui le ripete in qualche modo le fa sue, dice: bene maestro, hai detto secondo verità che egli è unico, non c'è altro all'infuori di lui. Chiamarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Notiamo che lo scriba, riprendendo le parole di Gesù, fa due correzioni. Non si limita solo a ripetere le parole di Gesù, ma un pochino modifica quello che Gesù ha detto. Gesù ha parlato utilizzando il tu. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Lo scriba invece parla in terza persona. Egli è unico, amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza. Cioè parla di Dio in terza persona, non come un tu a cui rivolgersi. E poi notiamo che lo scriba non menziona più l'anima e sostituisce la mente con l'intelligenza. In altre parole, lo scriba modifica le parole di Gesù tralasciando il coinvolgimento pieno degli aspetti più vitali dell'essere e sottolineando in modo forte l'elemento della razionalità. Allora, Gesù riconosce che lo scriba ha risposto saggiamente, però gli dice anche: non sei lontano dal regno di Dio, il che significa che non è proprio così vicino. Perché se gli dice che non è lontano, gli dice: certo, sei vicino, ma ti manca ancora un passo. E qua gli studiosi dicono, che si chiedono, no, ma cosa voleva dire Gesù quando gli dice non sei lontano? Da un lato voleva incoraggiarlo a dire sei sulla buona strada, però dall'altro voleva far evidenziare a quello scriba che gli spostamenti di accenti che lui aveva posto tra la risposta che aveva dato Gesù e la ripresa che lui aveva fatto, e forse non erano così saggi. In altre parole, l'essenza di ogni comandamento è la relazione con Dio, e questa relazione richiede un Dio che parla con un tu, un Dio che ascolta un tu, che si sa relazionare con un tu. Ma se questo un tu diventa un lui, noi cominciamo a parlare in astratto, e allora Dio, al posto di essere una persona di casa, diventa una persona terza, diventa un quadro, diventa un simulacro, diventa una statua, diventa una persona che non incide nella nostra vita. E lo stesso cambiamento di accenti sta in quel esautorare l'elemento della psiche, l'anima, o in quel cambiare tutto in un approccio razionale. La spiritualità, la sequela cristiana, non può essere un fatto di mente solo. La mente certo deve essere coinvolta, perché grazie a Dio, insomma, abbiamo anche una ragione da coinvolgere, Ma se la mente non ha una corrispondenza con la vita, noi abbiamo dei bravi maestri, ma non dei bravi discepoli. Non basta essere dottore per essere un bravo discepolo di Gesù. E qua Gesù si rivolge proprio a uno scriba. Gli scribi erano i dottori del tempo, coloro che avevano tutti i dottorati, se vogliamo, in scienze bibliche. Non basta il dottorato in scienze bibliche per essere un discepolo di Gesù. Occorre il coinvolgimento vitale, occorre un rapporto con Dio che coinvolga tutte le dimensioni della relazione. Ecco perché il brano termina dicendo: a quel punto nessuno osava più interrogarlo. Perché nessuno osava più interrogarlo? Perché Gesù aveva risposto all'ultima delle controversie mettendo il dito nel punto più delicato dell'uomo, il suo rapporto personale con Dio. Su questo nessuno poteva mettere in dubbio la posizione di Gesù. In Gesù era evidente il rapporto filiale al massimo grado, al punto tale che si esprimerà poi nella preghiera per eccellenza in quell'Abba, Padre, un termine che è carico di visceralità, di tenerezza, di confidenza, che Gesù farà udire nella preghiera nel momento delicato del Getsemani. Nessuno usava più interrogarlo. E allora, cari ascoltatori, ci siamo confrontati anche questa sera con due pagine forti del Vangelo di Marco. Da un lato abbiamo visto la pagina dei Sadducei che pongono a Gesù la questione della risurrezione e dibattono su Gesù sulla verità o meno della fede nella risurrezione. Dall'altro ci siamo misurati con lo scriba che chiede a Gesù qual è l'essenza della legge, l'essenza di tutti i comandamenti. E abbiamo visto come in entrambi i modi Gesù risponde in modo molto schietto. Ai Sadducei risponde mettendo in chiaro che credere in Dio e non credere nella risurrezione è la più grande bestemmia che noi possiamo fare, perché Dio è il Dio dei vivi, non è il Dio dei morti. E quindi mette un punto fermo su questo che interpella non solo i cristiani, ma ha interpellato in modo deciso e forte un ramo del giudaismo del tempo. Non solo, ma nella sua risposta conferma anche un altro elemento di fede, che è quello degli angeli. Perché nel momento in cui dice a dei Sadducei che agli angeli non credono, che quando noi saremo risorti saremo come gli angeli nel cielo, praticamente sta dicendo due cose: sta dicendo che la risurrezione esiste, ma anche che gli angeli esistono. Quindi risponde indirettamente a una domanda che i Sadducei non hanno osato fargli, ma che Gesù non ha paura di affrontare. Nell'altro caso, invece, nel caso dello scriba, Gesù sottolinea che l'essenza della legge sta nella relazione. E questa relazione si attua nel momento in cui noi abbiamo il coraggio di entrare, di fare entrare Dio nella nostra vita come un tu e non come una persona in terza, e non parlando di lui in terza persona, come un tu che ci interpella e ci guida. Ora, cari ascoltatori, lasceremo un altro momento di pausa musicale, uno stacco musicale. È il momento in cui ciascuno di voi è invitato a formulare una domanda, un quesito, un interrogativo. Vi ricordo che in questa nostra trasmissione le vostre domande sono preziose perché fanno parte proprio dell'approfondimento che ci regaliamo a vicenda. Tante cose possono essermi sfuggite durante questa riflessione, quindi le vostre domande diventano un servizio che viene reso perché le ricchezze della parola di Dio non siano sprecate e nemmeno così trascurate. Quindi ci risentiamo tra un po' con i vostri interrogativi. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera Don Giacomo, sono Diego da Torino. Mi dica. Io stavo ascoltando l'esegesi che si è fatta sul brano. Mi veniva una domanda, gliela butto lì la prima parte, no? Quando c'è lo scontro, diciamo, il confronto con i Sadducei. Sì. Quando lei ha commentato dicendo che Gesù richiama la relazione come prioritaria, la relazione con Dio Padre rispetto all'osservanza di una legge, di un comandamento. Io trovo, poi mi darà la risposta lei, io trovo che questo sia un argomento che oggi viene usato, come dire, cavalcato spesso anche dai detrattori della Chiesa Cattolica, no? Molte persone si rifugiano appunto dietro questo supposto rapporto personale con Dio, saltando quelle che poi sono le leggi che nei 2000 anni di storia la Chiesa ha anche scritto, diciamo. Questa è la mia domanda. La ringrazio, signor Diego. Effettivamente sono anch'io cosciente che può esserci questo rischio, cioè di una rilettura di parte, no? di questo brano. E non a caso forse Gesù, quando prende in considerazione la provocazione che gli viene dallo scriba, rispondendo allo scriba, sottolinea i due aspetti, sottolinea da un lato l'amore a Dio con il pieno coinvolgimento di tutto l'essere, e poi si precipita ad aggiungere: e il secondo è simile al primo, cioè amerai il prossimo tuo come te stesso. I due elementi, cioè la relazione con Dio e la relazione con il prossimo, vanno insieme, vanno legati insieme. Tra l'altro c'è un'altra cosa molto importante da evidenziare, che è l'elemento della comunità, cioè in Israele era molto chiara, non solo ai tempi di Gesù, ma anche oggi, è molto chiara questa dimensione, cioè un rapporto esclusivo, personale con Dio ha senso solo nel momento in cui è inserito all'interno di una comunità, all'interno di un corpo sociale che condivide la stessa fede. Ricordiamo le grandi feste di pellegrinaggio memoriali, come può essere la grande festa di Pasqua per il più ebreo, di ieri e di oggi. È sempre una festa in cui la celebrazione punta sul noi, cioè è la comunità nel suo insieme che ha vissuto quell'esperienza. Quindi ridurre tutto a un puro fatto personale sarebbe un venir meno a un principio forte della fede, che è quello della comunità. Una dimensione questa del resto che è sottolineata dalla scelta di Gesù stesso. Gesù stesso, non appena inizia a predicare, la prima cosa che fa, prima ancora di portare il suo insegnamento, qual è? È quella di scegliere delle persone da associare con sé nel suo ministero. Spesso viene anche la tentazione di dire: ma insomma, perché le ha scelte? Forse avrebbe fatto molto prima e molto, fra virgolette, meglio secondo i parametri umani se non avesse avuto queste persone tra i piedi. Cioè in alcuni casi abbiamo proprio l'impressione che i discepoli rallentino il percorso di Gesù, perché ora lo frenano, ora non capiscono, ora non riescono ad andare all'altra riva del lago. Eppure dietro questa scelta c'è una dimensione importante, quella di non fare da solo. Gesù sgorga dal mistero della comunione trinitaria con il Padre e con lo Spirito, e quindi il suo ministero pubblico nella vita dell'uomo del suo tempo e di ogni tempo è quello di coinvolgere una comunità. Ecco perché anche le prescrizioni hanno un loro significato. Dall'altra parte ovviamente c'è l'altro rischio, quello di fermarsi così tanto alle prescrizioni da perdere l'essenza, e anche su questo era un rischio del popolo di Israele allora, quindi tutti quei precetti che Gesù vuole riportare alla sua essenza, che tanti maestri ebrei del tempo volevano riportare alla loro essenza, abbiamo visto prima il caso di Hillel, e così e vale anche per noi oggi, cioè è chiaro che la Chiesa dà delle indicazioni, ma se queste indicazioni, queste prescrizioni sono private dell'anima che le vivifica, dell'elemento vitale che sta dietro, che è un elemento relazionale, la prescrizione diventa un guscio vuoto e quando non è un guscio vuoto diventa una pietra che opprime. Quello che Gesù disse, no? Voi caricate, sempre parlando agli scrissi, voi caricate di pesi pesanti gli uomini che non toccate neppure con un dito. Ecco, quindi ci sono un po' i due lati della medaglia, è una dimensione che può sempre essere fraintesa o manipolata in un modo o nell'altro. L'abilità di Gesù in queste controversie è quella di tenere unite le due dimensioni. Grazie, signor Diego, per questo suo interrogativo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, sono Viviana, chiamo da Bustarfizio. Io ho una domanda sia inerente col suo discorso, comunque penso che grandi linee. Praticamente io da un paio d'anni, diciamo che ho ricevuto il dono della conversione, dunque ho iniziato ad andare a messa e comunque a pregare sempre. Poi dopo un periodo di buio mi è capitato fra le mani un libro che parlava di gratitudine e ho cominciato ad applicare la gratitudine ogni giorno, ogni minuto, in tutto quello che facevo, no? Dunque io continuo a dire grazie, mentre prego dico sempre grazie per ogni cosa che mi capita, per ogni persona che incontro, e questo ho notato che mi fa sentire molto più vicina a Dio rispetto magari al semplice andare a messa o alle preghiere, comunque alle solite preghiere che dopo un po' magari, non so, ripetute così, perdevano anche un po' di... non so come spiegarmi. Sì. Ha capito? Allora, ti ringrazio Viviana per questa tua testimonianza. Il ringraziamento, tu poni l'accento su una dimensione, da una parte l'aspetto del ringraziamento, dall'altro l'aspetto di una preghiera più sentita, più coinvolta. Permettimi un'osservazione, no? Tu dici, dopo un periodo di buio hai trovato anche questa modalità di preghiera del ringraziamento che ti ha aiutato a, come dire, a evitare di pregare solo meccanicamente. E poi hai fatto un cenno alla messa, un cenno che ascoltato così potrebbe essere rischioso, cioè se detto così ovviamente nel modo conciso che può esserci in una domanda. La messa è la gratitudine per eccellenza, il nome stesso della messa, Eucaristia, è ringraziamento, è il ringraziare, è il momento in cui noi riceviamo i benefici più grandi del Signore. Però è vero quello che dici, il rischio a cui noi andiamo incontro è quello di ridurre anche un momento così alto, così vitale, così importante, così centrale per la nostra esistenza in una serie di, in una sequenza di gesti, di parole, a cui non riusciamo a dare vitalità. Ecco perché è importante il coinvolgimento di noi stessi, e il modo di coinvolgere noi stessi è proprio quello che tu stesso hai espresso. Da un lato il riconoscere nella nostra vita quotidiana la presenza di Dio dicendo grazie, grazie per questo che mi è successo, perché nel momento in cui io esprimo un atteggiamento di gratitudine riconosco un dono che mi è stato fatto. Oppure quello di tradurre la preghiera non solo nelle formule tradizionali, che pur hanno un loro valore, ma anche con parole mie, perché quando io ricevo un amico in casa mia non è che prendo un libro e gli leggo delle parole per accoglierlo, delle parole magari anche d'autore per accoglierlo. Può essere bello una volta, due, ma se tutte le volte che viene un amico a casa mia per accoglierlo in casa mi metto a leggere le parole di un autore anche importante del passato, cioè il mio amico smetta di venirmi a visitare, no? E lo stesso vale con Dio. Ci possiamo servire di un autore significativo, contemporaneo del passato per rivolgerci a lui. Però il Signore aspetta le parole nostre, le parole nostre. Ovviamente ci sono anche qua delle preghiere che hanno una pregnanza tutto particolare. È ovvio che una preghiera come il Padre Nostro, se ben recitata, se ben meditata, se detta col cuore, è la sintesi di quello che è la vita cristiana, però va detta in quel modo. La ripetizione pura e semplice senza il coinvolgimento del cuore può essere rischiosa. In alcuni casi può essere un modo per tenerci nel clima spirituale di Dio, no? In altri casi invece può essere un'azione puramente meccanica. C'era padre Andrea Gasparino, che io ricordo spesso perché per me è stato una grande guida, tra l'altro è appunto uno, ora è in paradiso, però attraverso Radio Maria continua appunto a portare gli insegnamenti della scuola di preghiera. Ecco, lui sottolineava molto la dimensione del ringraziare, del ringraziamento, e la dava anche come medicinale per tutti coloro che vivevano un momento di depressione, di fatica. Per cui secondo lui il ringraziamento all'inizio e alla fine della giornata è il modo migliore per metterci in sintonia con l'azione di Dio e per riconoscere la sua azione dentro di noi. E diceva che il mondo contemporaneo è malato di ingratitudine, ed essendo malato di ingratitudine si lascia sfuggire tanti miracoli che Dio compie ogni giorno. Quindi grazie Viviana per questo tuo intervento che ci ha portato al centro di una dimensione della nostra preghiera quotidiana. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera padre, posso riagganciarmi alla sua precedente risposta? Certo, con chi parlo? Anna da Bologna. Mi dica Anna. Allora, perché anch'io adesso ho 63 anni, ho fatto un percorso, chiaramente ho fatto parte del ciclo di Don Giussani da giovane, poi mi sono un po' persa per strada, poi mi sono un po' recuperata, e io penso che la preghiera comunque, anche se a volte non si sente con partecipazione, è come quando si telefona alla propria madre o al proprio padre la sera per salutarli, e così per sentire come stanno, cioè è anche una forma di rispetto. Oltretutto il rosario, sappiamo che la Madonnina ha piacere che si dica, e il Padre Nostro sono le parole di Gesù. Quindi secondo me, anche se non c'è molta partecipazione emotiva, comunque è una forma di rispetto. Almeno io la vedo così, mi è costato molta fatica anche a me ogni giorno dire il rosario, a volte ne ho voglia di meno, a volte ho più voglia di dirlo, però comunque è una forma di rispetto, soprattutto sapendo che il rosario la Madonnina ce l'ha detto lei. Allora la ringrazio signora Anna per la sua testimonianza. Allora voglio sottolineare due cose, riprendere due aspetti, no? Il primo, che è in comune con quanto ci diceva prima Viviana, anche Anna diceva: io ho fatto parte di un movimento, il movimento di Don Giussani, ringraziamo anche il Signore per queste personalità, tra Don Giussani, i fondatori delle congregazioni religiose, i santi, guardate quante persone il Signore ci mette sulla strada per orientare il nostro cammino, per aiutare il nostro cammino. Quindi Anna diceva: ho fatto parte anche di questo movimento, poi mi sono un po' persa e poi ho ripreso. Prima Viviana diceva: ho vissuto un momento molto buio, poi la prima cosa che volevo riprendere è proprio questo aspetto. Nel nostro percorso di vita, nel nostro percorso spirituale, prima o poi ci troviamo a confrontarci con o lo smarrimento o un momento di crisi, o un momento in cui non sentiamo più niente. Quante volte nella preghiera preghiamo e non sentiamo niente a livello emotivo? Allora, cosa vuol dire? Che la nostra preghiera in quel momento non vale? Assolutamente no. Quel momento in cui noi viviamo l'esperienza dell'aridità interiore può essere proprio il momento in cui facciamo i passi più grandi, perché il Signore ci educa ad aderire con fiducia al Signore, non sulla base delle nostre emozioni, che possono nascondere tanti tranelli a volte, ed è il rischio che si corre quando si punta tutto su certe forme molto cariche emotivamente e sentimentalmente. Ma questi momenti di aridità sono a volte permessi, a volte ci passiamo in mezzo perché attraverso di essi noi fortifichiamo la nostra preghiera o verifichiamo noi stessi, perché a volte l'aridità non dipende dallo spirito, dipende magari dal nostro peccato, dalla nostra lontananza con Dio, da Dio, dal non voler essere sinceri davanti a Lui. E allora in quei momenti l'aridità è una pedagogia, è una linea pedagogica che Dio utilizza per accompagnarci, per guidarci. La seconda cosa che volevo riprendere è questa concezione, no, del rosario o di altre forme di preghiera. Pensate ad esempio alle coroncine, quante forme di preghiera tradizionali noi abbiamo che possono sembrare paradossalmente mnemoniche, ma che non sono solo delle formule dette meccanicamente, che nascondono dietro qualche cosa di più. Ora, è vero quanto diceva la nostra ascoltatrice, cioè si tratta di una forma di rispetto nei confronti della Madonnina, diceva lei, però se ci limitiamo alla forma di rispetto è troppo poco, cioè noi non è che pregando facciamo piacere a Maria. Maria ci indica la via della preghiera, Gesù ci ha tracciato, si rivela come maestro di preghiera, perché è lì che noi troviamo pienamente noi stessi, è lì che noi entriamo in piena comunione con Dio, è lì che noi entriamo nella logica che abita la storia della salvezza, cioè è nel momento della preghiera autentica che noi entriamo in sintonia con un mistero più grande che ci abita. E questo non è solo un atto di rispetto verso Dio, certo, è il massimo atto di rispetto verso Dio, ma è un atto di rispetto anche verso noi stessi. È la grande via che ci conduce alla profondità di noi stessi, a trovare, a cogliere, a vedere tutti quegli aspetti, quei doni che ci vengono da Dio, che ci vengono dal prossimo, che ci vengono da chi ci vive accanto, che altrimenti non riusciremmo a vedere. Vedete, noi oggi viviamo in un mondo dove tutto è di corsa, corriamo da mattino a sera, abbiamo delle scadenze che dobbiamo rispettare, abbiamo questi telefoni che squillano in ogni momento, le mail da rispondere, gli amici da incontrare su Facebook, in altre parole siamo sempre rincorsi o alla rincorsa di qualcosa e di qualcuno, però questo mondo che sembra così centrato sulla rete delle relazioni rischia di, se non vissuto bene, rischia di impoverirci enormemente, perché ci impoverisce di quell'ascolto vero che caratterizza una relazione e che ha bisogno di calma, di silenzio, della capacità di fermarsi, di sedersi e di ascoltare. Ecco, la preghiera assicura questo. E capite, non è solo una forma di rispetto nei confronti della nostra madre, ma è una forma di rispetto verso noi stessi, verso l'altro e soprattutto verso i grandi doni che ogni giorno riceviamo da Dio. Grazie anche a te, Anna, per questo tuo intervento. Pronto? Pronto, con chi parlo? Sono Mario da Modena. Mi dica, Mario. Ecco, io volevo dire, il fatto di ama il prossimo tuo come te stesso, no? Sì. Sono in tema, giusto? Certo che è in tema, precisamente. Ascolti, io ho subito del male a 9 anni da un sacerdote, no? Sì. E come ho fatto a perdonare? È stato Dio ad aiutarmi e ne porto il fardello addosso, prendo dei psicofarmaci, però perdonare è stata una cosa bellissima. Sì, allora la ringrazio, Mario, per questa sua testimonianza che tocca un aspetto è molto molto molto delicato. Oltre vabbè all'esperienza personale, tocca il tema del perdono. Allora, su questo argomento ovviamente le parole, e anche sulla questione della sua storia personale, proprio per un motivo di rispetto le parole devono essere misurate, no? Per cui anche qua vorrei dare solo due sottolineature. La prima cosa è la capacità di perdonare. È un dono che viene da Dio, è un dono che non possiamo pretendere di avere da un giorno all'altro. Sicuramente è il dono che ci rende più liberi di fronte a un male subito, perché finché noi proviamo rancore, rabbia e desiderio di vendetta nei confronti dell'altro, in qualche modo noi siamo legati all'altro. L'altro ci tiene ancora in pugno, con la rabbia, con il rancore che proviamo verso di lui e che non ci permettono di separarci da chi ci ha fatto del male. Il perdono invece ci scioglie dalle catene del cuore, ci scioglie dalle catene con cui il male vuole tenerci irretiti. Quindi ecco perché dicevo è un dono che viene da Dio e che dobbiamo invocare da Lui. Dall'altro il perdono non toglie la ferita che uno porta con sé, per cui quando uno compie un male su un'altra persona, tanto più se la persona è molto piccola o è molto fragile, come un bambino, come un malato, come un anziano, la persona porta dentro di sé la ferita del male subito. E a volte, certo, il perdono fa la sua parte di guarigione ed è il modo migliore per guarire, però la ferita resta sotto la pelle, la cicatrice rimane e ci sono dei momenti in cui quella cicatrice torna a scottare, a bruciare, e allora la persona deve metterlo in conto. Ovviamente la medicina fa la sua parte, la fede fa la sua parte, le relazioni fanno la sua parte, cioè in base un pochino alla ferita che uno ha vissuto o ha subito, ci sono delle modalità per far fronte a tutto questo. È ovvio che una delle modalità per far fronte anche al male che una persona è subita è quella di fare in modo che altre persone non subiscano la stessa cosa e quindi fare in modo che colui che è all'origine di questo male sia in qualche modo fermato e bloccato. La ringrazio Mario per questo suo intervento che tocca il tema dell'amore del prossimo. L'amore del prossimo a volte ha un lato molto esigente che ha a che fare con il perdono ed è proprio quello che è legato alla storia che lei in parte ha condiviso. Pronto? Pronto, con chi parlo? Buonasera, sono Maria Elisabetta, le dico, sì, sono dica. Una mamma. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sento, mi dica. Buonasera, Don Giacomo. Sì, sono molto dica. Contenta di aver aperto la radio questa sera e di essermi sintonizzata su Radio Maria. È un argomento trattato forse esclusivamente per me, ritengo. Sono una mamma che ha perso due figlie. È una moglie che ha perso il marito. Allora, molto importante è per me la sicurezza della resurrezione, come lei benissimo ha sottolineato, ma ancora di più avrei bisogno di un chiarimento sul rapporto dopo essere morti o risuscitati, il rapporto che potrebbe sussistere tra me e mio marito, certamente non carnale, però il ricordo della nostra storia rimarrà sempre vivo tra noi, oppure saremo due persone che forse vagamente hanno il ricordo di una vita vissuta per lunghi decenni insieme? La ringrazio Maria Elisabetta per questa sua domanda che ci ricollega all'episodio, alla domanda anche un pochino dei Sadducei. Allora, uno degli elementi che costituiscono la nostra fede, il nostro credo, è credo nella risurrezione del corpo, della carne. Ovviamente nel momento in cui noi esprimiamo questo nostro atto di fede, confermato e basato ovviamente sulla tradizione neotestamentaria, dobbiamo tenere presente il concetto di corpo su cui nasce la professione di fede. Cioè, nel Nuovo Testamento il concetto della risurrezione dei corpi non ha tanto a che fare con la fisicità del nostro essere, cioè con la pelle, le unghie, cioè l'aspetto più fisico del nostro essere, ma soma è l'uomo nell'insieme della sua personalità, dove per personalità io intendo anche le relazioni, ciò che uno costruisce nella vita, i tratti della personalità, le qualità, ovviamente i limiti. Ora, il momento della risurrezione, nel momento in cui risorgiamo, noi risorgiamo con la nostra individualità, con tutto quello che noi siamo unici e ripetibili. Ovviamente le qualità vengono potenziate, i limiti scompaiono, cioè noi risorgiamo in un modo totalmente nuovo. È molto bello l'esempio che nelle sue lettere Paolo fa, nella lettera, nella corrispondenza con i Corinzi, Paolo fa, quando mette a confronto la realtà della vita presente, la realtà della vita futura, utilizzando diverse immagini. Tra le diverse immagini lui utilizza quella del seme. Il seme, lui dice, è un corpo che viene messo nella terra. Poi cosa esce fuori? Esce una pianta. La pianta è molto diversa dal seme, però in quella pianta ci sono tutti gli elementi che caratterizzano l'identità del seme. Cioè, se io pianto un garofano, mi cresce un seme di garofano, mi cresce un garofano. Se io pianto un seme di rosa, mi cresce una rosa. Però è molto diversa la pianta da quello che ho messo nel terreno. Ecco, lo stesso vale per ciascuno di noi. Nel momento in cui noi moriamo, viene sepolta la nostra storia, viene sepolto il nostro corpo mortale. Quello che risorgerà sarà totalmente diverso, proprio come il seme è diverso dalla pianta. Però sarà profondamente legato a noi, al punto da portare in sé tutti i tratti della nostra personalità. E questo allora permette di dare una risposta al suo quesito. Lei nella sua vita si è costruita come mamma e come moglie con suo marito, con i suoi figli. Quindi nel momento in cui risorge, tutto questo fa parte della sua vita, della sua individualità, al punto tale che fin dalla Genesi le scritture dicono non sono più due ma una sola carne, nel rito del battesimo, nel rito del matrimonio, scusate, si arriva persino a dire non osi separare l'uomo ciò che Dio ha unito. Cioè questa unione, questo diventare una cosa sola, è ovvio che trova la sua pienezza nella risurrezione. Quindi permane nella realtà dei risorti la pienezza della relazione, ma è una relazione in pienezza, per cui il legame tra una madre e i figli, il legame tra una donna con il suo sposo, tra gli sposi, permane, risorge, anzi diventa l'emblema più bello, l'icona più bella di quella che è la Trinità divina, la comunione divina. Per cui penso che la risposta che si possa dare da questo punto di vista è questa. Come ora, anche se i suoi figli, suo marito vivono già nell'eternità in Dio, vivono già in Dio, come anche in questo momento fanno parte comunque della comunione ecclesiale, quindi fanno parte anche della sua vita, così sarà dopo. Questa relazione che è stata troncata da eventi probabilmente di malattia, drammatici, questo non lo so, ecco, anche di là questa relazione non sarà interrotta, ma troverà la sua pienezza. Quindi questo penso possa essere di incoraggiamento, insomma, un po' per tutti, sia per i genitori, sia per gli sposi. Ciò che noi costruiamo in questa vita troverà pienezza nella risurrezione. Niente va perso agli occhi di Dio. Grazie signora Maria Elisabetta per la sua domanda. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera Don Giacomo, chiamo da Agrigento, vorrei farle una domanda. Mi dica. Volevo chiederle, secondo San Paolo, adesso la lettura, non ricordo bene qual era, comunque lui dice chi osserva la legge, vive secondo la legge, viene giudicato secondo la legge, però sappiamo anche che il Signore ha messo nella nostra coscienza la sua legge, per cui chi vive secondo coscienza dovrebbe salvarsi allo stesso modo. Ora io le chiedo, che differenza c'è tra chi si salva seguendo la legge nella propria coscienza e chi invece ha avuto la fortuna di conoscere Gesù Cristo, l'uomo, Dio, per cui c'è questo rapporto interpersonale, insomma, più grande, più che realizza di più. La ringrazio, buonasera. Certo. La ringrazio. Paolo, nella lettera ai Romani, presenta ai credenti di Roma, le vie attraverso le quali Dio incontra l'uomo. Le vie attraverso le quali Dio incontra l'uomo possono essere varie. C'è la via della natura, per cui noi basta che abbiamo un pochino di sensibilità, di attenzione, per cui basta guardarci attorno e cogliamo che Dio è presente nella storia, perché il ciclo della vita, il mistero della risurrezione è testimoniato dalla stessa natura, cioè tutte le cose che muoiono a un certo punto risorgono, come l'esempio che citavo prima, la grandiosità delle cose, il cielo stellato, le montagne, la bellezza di alcuni scorci naturali, di alcuni dico perché gli altri purtroppo li abbiamo rovinati noi, tutto questo ci parla di un mistero che ci supera, come del resto anche le tappe della vita umana, il mistero di una nascita, il mistero di alcuni legami, sono tutte cose che ci dicono che c'è qualcosa di più grande che ci avvolge. Quindi Paolo dice c'è una via che educa l'uomo ed è la via della natura, c'è un'altra via che educa l'uomo ed è la via della sapienza, quella dell'uomo che cerca e che si interroga su chi sia Dio, su chi sia se stesso, su qual è il senso dell'esistenza umana. E poi c'è la via dell'incontro con Cristo. Ora, l'uomo può arrivare a trovare il mistero di Dio attraverso queste possibili vie. La via naturale, che è quella più, come dire, un pochino più, meno completa. La via della sapienza, che è quella che ha trovato la sua declinazione poi anche nelle varie forme religiose, da quelle più antiche a quelle più contemporanee, e poi c'è la via della rivelazione, che per noi cristiani trova il suo compimento nella rivelazione massima di Gesù Cristo. Solo in Lui noi incontriamo Dio Alfa e Omega, cioè dall'inizio alla fine, solo Gesù è la pienezza del volto di Dio. Questo non significa che chi non incontra la pienezza del volto di Dio non può assolutamente accedere alla vita di Dio o al suo mistero. Vi accede in altre forme che sono, come dire, parziali, sono limitate, hanno degli aspetti magari anche di ambiguità. In Cristo invece abbiamo la pienezza della rivelazione di Dio. Quindi già Paolo sottolineava che le possibilità di incontrare Dio sono le più diverse. E quando lui parlava al mondo pagano, normalmente iniziava sempre dicendo: guardate, voi non siete poi così lontani da Dio, perché lo avete conosciuto in forme diverse, siete arrivati a Lui attraverso la vostra sapienza. Se ricordiamo il famoso discorso che Paolo tiene ad Atene, Paolo parte da un altare pagano, dove c'era scritto al Dio ignoto. Gli ateniesi avevano dedicato questo altare al Dio ignoto perché i pagani ritenevano che se un Dio era privato dal suo altare solo perché non era conosciuto, quel Dio si sarebbe ingelosito e arrabbiato e quindi avrebbe punito la città. Ecco allora che avevano costruito un altare al Dio ignoto, così non c'era nessuna divinità che si poteva arrabbiare portando del male in quella città. Ora, Paolo parte proprio da questo dicendo: vedo che siete molto religiosi, al punto tale che non volete trascurare nessuna divinità. Ora io vi annuncio quello colui che compie il volto di Dio e che è Cristo e la sua risurrezione. E a quel punto sarà deriso dagli ateniesi, però notiamo come Paolo arrivi agli ateniesi, cioè dice: questo è un passo che voi avete fatto della vostra religiosità, cioè una ricerca che si esprime in questo modo. Ora io vi dico che questa vostra ricerca è parziale e che il compimento lo trovate in Cristo. Quindi vede, signora, come diverse sono le modalità o le vie per accedere a Dio. Certo è una cosa, Dio in un modo o nell'altro viene incontro a ciascuno e a ciascuno rivela le sue vie. Penso che il tempo a nostra disposizione, cari ascoltatori, sia terminato. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno chiamato: Diego da Torino, Viviana da Busto Arsizio, Anna da Bologna, Mario da Modena e Maria Elisabetta e anche l'ultima nostra ascoltatrice per le domande che hanno arricchito la nostra trasmissione. Rimaniamo allora questa sera in compagnia di questi due gruppi che hanno interrogato Gesù, i Sadducei con la domanda sulla risurrezione e lo scriba con la domanda sul comandamento più grande. Penso che le due risposte che Gesù ha dato possano essere due piccole luci che si possano accompagnare nel mese successivo. E noi ci diamo appuntamento ad agosto. Auguro a ciascuno di voi la benedizione di Dio e anche una serena pausa estiva. Una benedizione a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.